Dorado 27 rima. 1, 2, 3, cho. 1, 2, 3, co. 1, 2, 3, la. 1, 2, 3, te. Cho, co, la, te. Cho, co, la, te. 1, 2, 3, cho. 1, 2, 3, co. 1, 2, 3, la. 1, 2, 3, te. Chocolate, chocolate.